parla sulle accuse della gente. Rima aliena. Fare rap in milligrammi, dammi la dose mia per commuovere la giuria, mi sdento. Puoi sentir la mia cazzo di campana. Son pieno di etichette, non Dolce Gabbana. Volo sulle accuse di Lucifero, portiamo rima aliena su un pianeta ancora libero. E tu, come dormi tu? Questa notte in ginocchio, ho pensato alla tua merda, in fondo non chiudi occhio. Rima sopra rima più aliena che mai, mi perdo tra le righe come quando in freestyle. Penso in mille cose ma ho la bocca cucita. Veniamo dalle stelle, non siamo figli di cita. Canalizzo, oltrepasso le barriere. Fidati di me, c'è una chiave che fa vedere. Volo sulle accuse, sulle emerse, dove tonnellate di parole vanno perse. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Vola pure sulle accuse di tutti quegli altri che masticano gomiti e si strappano gli arti. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Arti metodiche come metodi spartani. Ti piace come suona? Bene, tira sulle mani. Vola sulle accuse della gente, apri le ali senza ascoltare chi ne ha tante. Di cose da dire ma poi non dice proprio niente. L'anima non mente, con il cuore si sente. Non li conosce, cominciano a giudicare. Parlano dietro poi ti salutano, bella compare. Coltelli alla schiena ti vogliono affondare. Appare e scompare, non ti vengono a aiutare. Solo se han bisogno poi ti vengono a cercare. Le parole adesso pesano come delle montagne. Rivoluzione che non si fa perché è troppe lagne. Perfettini fuori ma dentro son delle fogne. Lacrime di coccodrillo, teste nelle gogne. Cuore di pietra che ne han di più i burattini. Cani abbandonati e troppi viziati bambini. Rincoglioniti tutti da sti cazzo di giochini. Violenza e sesso in tele a tutte le ore. Questo è quello che trasmettono senza pudore. La musica ci salva, metto tutta la passione. Pitto sopra i muri, Chuck Brighter, stazione. Prendo fiato bro, non ho più di polmoni. La gente del cazzo ma rotti i coglioni. Per me cultura, per voi firmati pantaloni. Adesso assieme a Deco rimaglieni produzioni. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Vola pure sulle accuse di tutti quegli altri che masticano gomiti e si strappano gli arti. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Arti metodiche come metodi spartani. Ti piace come suona? Bene, tira sulle mani. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Vola pure sulle accuse di tutti quegli altri che masticano gomiti e si strappano gli arti. Vola sulle accuse della gente ordinaria, quella senza cuore, quella piena d'aria. Arti metodiche come metodi spartani. Ti piace come suona? Bene, tira sulle mani.